Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Farmaci antipertensivi e Covid-19, nessun rischio per i pazienti in trattamento. Uno studio condotto dall'Università di Milano Bicocca in collaborazione con l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l'Agenzia Regionale ARIA, pubblicato sul New England, evidenzia che l'assunzione di ACE inibitori e sartani non espone a maggiori probabilità di incontrare l'infezione Covid-19. Commentiamo lo studio insieme al professor Giuseppe Mancia, professore emerito all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Una scoperta fatta già molti anni fa, ai tempi della SARS, quindi all'inizio degli anni 2000, aveva dimostrato, con dati nell'animale d'esperimento, che l'enzima ACE2 rappresenta la porta d'ingresso del virus nella cellula, e questo enzima è molto fortemente modificato da farmaci di comunissimo uso nell'ipertensione, nello scompenso cardiaco, nel post-infarto, nelle nefropatie, che sono i sartani e gli ACE inibitori. E di qui la preoccupazione che questi farmaci potessero in qualche modo favorire l'ingresso del virus nella cellula. Noi però abbiamo visto, analizzando i dati della regione Lombardia, che questo non corrisponde alla realtà, perché i pazienti, indubbiamente quelli che avevano l'infezione Covid, più frequentemente prendevano questi farmaci, ma questo era vero anche per gli anti-ipertensivi. E quando è stato calcolato il rischio, analizzando tutte le variabili a disposizione, che individui che prendono questi farmaci potessero avere una maggiore suscettibilità all'infezione, questo si è dimostrato non essere assolutamente vero. E quindi è importante che i pazienti continuano a prendere questo tipo di terapie, perché smettere questo tipo di terapie, che sono salvavita, incrementa fortemente il rischio di eventi cardiovascolari. Professor Mancia, la ripresa può essere anche un'occasione per adottare uno stile di vita più salutare. Quali sono le attenzioni quotidiane che possono aiutarci a tenere sotto controllo la pressione? Evitare un incremento del peso corporeo, perché un incremento di peso corporeo può comportare un incremento della pressione arteriosa. Evitare alcolici, evitare cibi troppo salati e cercare, nei limiti del possibile, di mantenere un minimo livello di esercizio fisico, perché l'esercizio fisico ha di per sé un effetto riducente sulla pressione arteriosa. Queste sono ovviamente le stesse raccomandazioni che vengono fatte da anni, che purtroppo si associano ad una bassissima aderenza da parte dei pazienti, ma che in questa particolare situazione che stiamo vivendo da 2 mesi e mezzo hanno una particolare importanza. Grazie professor Mancia per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Tutti sappiamo che l'ipertensione è un fattore di rischio per la salute cardiovascolare. Negli incontri a tu per tu sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, oggi torna a trovarci il professor Giulio Stefanini. Con lui parleremo di cuore, di terapie, di stile di vita e di novità che arrivano dal fronte della ricerca. Buona giornata, vi aspetto.